Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Sono 19:15:43 in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. Vi ricordo la squadra: Nadia Zammitti, Laura Faggini in redazione e questa sera Fabio Cantadori in regia. E siamo di nuovo qua da Viale Monterosa a Milano in diretta dopo 2 settimane trascorse in Afghanistan. Siamo stati a Balabaluk, nella zona di Farah, alla situazione del paese asiatico. Dedicheremo una puntata speciale sabato prossimo. Ragioneremo sulla presenza italiana, ISAF più in generale, sul ritiro del 2014, sulla capacità dell'esercito e delle forze di sicurezza afghane di sostenere l'impatto e ancora la forza dei talebani. Tutto questo, una puntata speciale sabato prossimo, ma adesso accendiamo i riflettori sull'Egitto. Demonstrators rallied against President Mohamed Morsi and the Muslim Brotherhood in Cairo's Tahrir Square as the protests entered their second week. A very successful demonstration for the pro-Morsi camp. In Egitto, dove gli eventi si succedono veloci e cruciali in questi giorni, in queste ore, è in corso una vera e propria lotta tra poteri dello Stato, tra giudici e il presidente Morsi, che pochi giorni fa, con un decreto, ha avocato a sé ampi poteri, praticamente ha reso inappellabili le sue decisioni. I giudici sono in sciopero, contestano il presidente, esponente dei Fratelli Musulmani. L'opposizione ha tuonato il faraone Morsi come al tempo di Mubarak. Nelle scorse settimane vi sono stati scontri anche violenti, non solo al Cairo, tra le forze di sicurezza e gli oppositori di Morsi. E nelle ultime ore l'Assemblea Costituente ha pigiato sull'acceleratore e in tutta fretta ha approvato la bozza della Costituzione, che verrà sottoposta nelle prossime settimane a un referendum. Peraltro, proprio in serata, questa bozza dovrebbe essere consegnata al presidente Morsi. E insomma, c'è chi storce il naso perché si ricorda che c'è la Sharia tra le fonti giuridiche. Che cosa sta accadendo in Egitto? Si rischia davvero la guerra civile, come alcuni analisti sostengono? Vi ricordo che potete dire la vostra via SMS 349-238-6666 oppure postare i vostri commenti e le vostre domande agli ospiti via Facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24 oppure Twitter Nessun luogo 24. E allora andiamo subito al Cairo, in diretta, dove c'è Giulia Marchi, fotoreporter. Giulia, buonasera, benvenuta a Nessun luogo lontano. Buonasera. Allora Giulia, dove ti trovi in questo istante? In questo momento sono al Cairo, come dici tu, e sono non distante da Piazza Tahrir, quindi nel cuore della città, in downtown. Ecco, Giulia Marchi, fotoreporter, peraltro stiamo per postare sulla pagina Facebook i tuoi lavori. Ti sei occupata di Egitto da parecchi mesi, sei di base al Cairo, quindi chi meglio di te può regalarci una fotografia di quella che è stata Tahrir ieri e oggi, due facce diverse, mi sembra di poter dire. Indubbiamente, diciamo che la giornata di oggi è stata significativa perché sono i manifestanti pro Morsi, quindi pro governo, che si sono riuniti in gran numero, al contrario degli scorsi giorni. Diverse decine di migliaia di persone aderenti alle idee dei partiti islamisti, pro Fratelli Musulmani, salafiti del partito Nur e diversi altri, si sono riuniti in una zona differente da Piazza Tahrir, che ormai è più che conosciuta. Si sono dati appuntamento di fronte all'Università del Cairo, nella zona ovest della città, per evitare collisioni con i manifestanti liberali che sono ancora stanziati in Piazza Tahrir e dove si trovano da diversi giorni. La manifestazione di oggi dei pro-Morsi ha fatto confluire diverse marce e diverse persone arrivate anche da fuori dalla città, da fuori città, dalle zone rurali, per capirsi. Si sono riuniti in sostegno al presidente e alle sue decisioni, in particolar modo in sostegno al progetto di costituzione che è stato approvato dall'Assemblea Costituente, come dicevi, e un'area estesa nella parte ovest della città è stata bloccata al traffico oggi per lasciare spazio ai manifestanti. Sì. Sin dal mattino moltissima gente ha espresso il suo appoggio al presidente, molti uomini, per la maggior parte uomini, ma anche le donne erano presenti con il velo, il niqab, bambini, giovani e meno giovani, molti venuti anche da fuori con gli autobus organizzati per l'occasione. Insomma, l'atmosfera era animata, sì, però devo dire rilassata, e la tipologia di persone era sicuramente molto molto diversa da quella che si è potuta vedere nella manifestazione di ieri in piazza Tahrir o in quelle organizzate anche martedì scorso e venerdì 23 per esempio. In quel caso erano le forze dell'opposizione, i liberali e i cristiani che si facevano sentire, erano sostanzialmente sono indignati per la dichiarazione costituzionale proclamata da Morsi la, sì, settimana scorsa. Comunque in quel caso donne per la maggior parte, sì, scusami. No, no, prego, prego Giulia, finisci pure, figurati. Niente, dicevo che in quel caso, per cui nel caso dei liberali, la fotografia è completamente diversa, voglio dire le donne sono per la maggior parte non velate, la gente è vestita all'occidentale, per dire i liberali diciamo che rassemblano la parte più agiata della società, gli intellettuali, insomma sono due visioni completamente diverse che si ritrovano in due parti diverse della città in questi giorni. Ecco, due facce della piazza del Cairo, i due volti dell'Egitto. Fra l'altro, Giulia, ricordavi questi pulmini, no? Questa organizzazione capillare che è tipica, no, dei fratelli musulmani, che sono molto vicini alla gente, hanno una tradizione di vicinanza, di assistenza, no? Quasi di stato sociale, e l'hai visto tu stessa, insomma, con questa ramificazione anche della logistica e del trasporto. Ma l'altra domanda che volevo farti, Giulia, è questa: dici che aria tira in questo momento? Insomma, le due componenti sono ben divise fisicamente, quindi come dire, dal punto di vista fisico. Manifestazioni proprio per evitare gli scontri, tanto che la manifestazione di oggi che c'è stata oggi all'Università del Cairo, quindi i pro governo, i pro Morsi, dovevano riunirsi martedì scorso, ma anche le forze dell'opposizione avevano organizzato diverse marce e quindi i fratelli musulmani hanno rimandato questa manifestazione che ha avuto poi luogo oggi. Quindi sono state decisioni ben precise, nel senso si sono mantenute separate le due manifestazioni in modo tale che non ci fossero scontri. E per quanto posso dire io, dalla mia esperienza di ieri e di oggi, l'atmosfera era particolarmente rilassata da entrambe le parti, nel senso ovviamente si difendono degli ideali e la gente è particolarmente arrabbiata da una parte e dall'altra, sì, cerca di difendere comunque le proprie idee, ma l'atmosfera era molto rilassata, posso dire, molto diversa dalle manifestazioni che ho potuto seguire durante l'anno, sì, da aprile scorso in poi, dove la gente si ritrovava a Tahrir ed era particolarmente aggressiva anche nei miei confronti, ad esempio. Io posso essere un esempio tanto quanto altre giornaliste donne, per lo più, sì, che sono state assalite o hanno ricevuto, insomma, maltrattamenti di diverso tipo. Invece in questi casi, tipo ieri e oggi, l'atmosfera era completamente differente, erano persone che arrivavano e si riunivano per proteggere, per difendere degli ideali. E quindi niente, devo dire che tutto sommato ho visto un'altra Tahrir, quella che io non avevo ancora potuto vedere, sì, perché io sono qui da febbraio di quest'anno, sì, quindi non ho potuto seguire la rivoluzione in diretta, ma ho seguito tutto il post, come dire, esatto, il lunghissimo post di cui stiamo vedendo gli sviluppi e gli effetti. Grazie Giulia Marchi per essere stata con noi, buoni scatti, grazie, buona serata, voi, buon grazie, lavoro. Giuliamarchi.com, il sito, potete guardare, osservare i suoi lavori. Adesso però andiamo avanti con l'analisi. The flow to get the dough, yo, I'm killing the mic. The industry's a battlefield, so I roll with the knights. Word of advice, better than twice, the aim is precise. The murder 349-238-6666, i vostri messaggi, come quello di Roberto da Milano, che è piuttosto tranchant. L'Egitto passerà, come previsto, dalla padella alla brace in mano a fanatici islamici. Questa è l'opinione di Roberto. Mi invito a postare le vostre anche sul profilo Facebook Nessun Luogo Lontano _ Radio 24. Intanto do il mio buonasera a Paola Caridi. Paola, buonasera a voi. Paola Caridi, giornalista, esperta di questioni egiziane, autrice, fra l'altro, cito, insomma, fra le tante cose che fa, Invisible Arabs, il suo blog. Prima domanda con risposta telegrafica, te ne prego Paola. Esiste un rischio di guerra civile in Egitto? Cioè si è imboccati una strada piuttosto pericolosa? Abbiamo visto le due ultime settimane con episodi di violenza. Adesso stasera la situazione sembra più tranquilla. C'è il rischio di una guerra civile secondo te? Allora, se vuoi una risposta secca ti dico non si può escludere. Se vuoi una risposta più articolata ti dico forse è ancora un po' lontana. Allora, cerchiamo di ricapitolare qual è, perché ho detto all'inizio della trasmissione c'è in corso una lotta tra poteri dello Stato. Ricapitoliamo l'architettura del poteri dello Stato in Egitto. Il Parlamento egiziano dispone del potere legislativo ed è composto da due camere. L'Assemblea del Popolo, con 454 deputati eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni, e il Consiglio Consultivo, composto da 264 consiglieri, per 2/3 eletti direttamente e per 1/3 nominati dal Presidente per un mandato di 6 anni. È un organo consultivo con poteri limitati, ma ha l'ultima parola in materia di interpretazioni su leggi e decreti del Presidente. Nel vuoto di potere creatosi con la caduta di Mubarak, il 30 marzo 2011 il Consiglio Superiore delle Forze Armate, cioè l'organo più alto della gerarchia militare, promulga una dichiarazione costituzionale provvisoria, con la quale affida all'Assemblea del Popolo il compito di sorveglianza sull'operato degli organi esecutivi, sulla corretta emanazione delle politiche pubbliche di Stato e del piano economico e di sviluppo nazionale. Ma il Consiglio scioglie l'Assemblea e ne assorbe i poteri, subito dopo che la Corte Costituzionale riscontra l'illegittimità della precedente legge elettorale egiziana. Nel maggio 2012, il candidato della Fratellanza Musulmana, Mohamed Morsi, vince le elezioni presidenziali e entro pochi giorni emana un decreto per riassorbire tutti i poteri che il Consiglio Superiore delle Forze Armate aveva assunto in via temporanea con una dichiarazione costituzionale ad interim, promulgata immediatamente dopo la caduta di Mubarak. Prima che Morsi iniziasse la sua presidenza, ovvero il Consiglio Superiore delle Forze Armate, controllava autonomamente tutte le materie inerenti l'esercito, la difesa, il bilancio delle Forze Armate e il bilancio nazionale, oltre ai compiti propri dell'Assemblea Popolare che aveva fatto sciogliere. Nel giro di poche settimane, Morsi emana una serie di decreti che riconfigurano l'assetto istituzionale dell'Egitto. Riabilita l'Assemblea Popolare e sostituisce una serie di funzionari dell'alta nomenclatura militare nominati durante l'era Mubarak. La più potente entità politica egiziana, però, rimane comunque l'alta gerarchia militare. Con un personale di oltre 450.000 unità, i militari controllano e posseggono un'ampia fetta delle società finanziarie e industriali presenti in Egitto, creando lavoro, prodotto interno lordo e senso di nazionalità in molti cittadini. Questo è lo stato dell'arte dell'importante, cruciale paese nordafricano dove sta andando l'Egitto e ancora Morsi si sta inesorabilmente trasformando in un faraone e ha imboccato una via autoritaria. A queste domande cercheremo di rispondere in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Questa sera Nessun Luogo Lontano ragioniamo sullo stato dell'arte, della politica, delle istituzioni egiziane, dove sta andando il paese. Ci accompagnano le note dei Salalem, gruppo pop particolarmente in voga nei locali del Cairo queste settimane, e ci accompagna in questo percorso Paola Caridi, giornalista esperta di questioni egiziane e non solo. Paola Caridi, una rivoluzione invano, viene da chiedersi. Si è passati da un regime autoritario, quello di Mubarak, a uno che inizia a assomigliarli inesorabilmente giorno dopo giorno. No, io non credo che le rivoluzioni siano mai invano, e non è una frase ad effetto. Credo che quello che è successo dal 25 gennaio del 2011 covi da molto tempo dentro l'anima egiziana, cioè una richiesta di dignità, di democrazia, di diritti che non poteva aspettare oltre. Certo ci sono dei problemi, li vediamo tutti, soprattutto in queste ultime settimane, ma io credo che vi sia stato un peccato di origine già nei primi mesi del 2011. Il referendum sugli emendamenti costituzionali del marzo del 2011 aveva già, secondo me, indicato i problemi, e prima di tutto che questa è una transizione che è stata gestita da quel Consiglio Militare Supremo che avevate richiamato nella scheda, cioè una transizione che non si è per esempio espressa, come, tanto per fare un paragone, si è espressa la transizione italiana dal fascismo alla democrazia, e cioè un azzeramento di alcuni settori ben precisi del regime, una nuova leva politica e poi un'assemblea costituente eletta dal popolo a suffragio universale. Questo non è stato in Egitto, vi è stata una transizione gestita da un pezzo del regime precedente, cioè le alte gerarchie militari. Vi sono stati degli emendamenti costituzionali scritti da un gruppo di persone non elette, la stessa assemblea costituente di cui stiamo parlando in questo momento è stata designata, è un folto gruppo di un centinaio di persone, in gran parte islamiste. Coloro che hanno approvato questa bozza di costituzione, che poi verrà sottoposta entro 2 settimane al referendum e quindi in un tempo estremamente breve, sono tutte islamiste, perché i liberali e i cristiani e i laici hanno abbandonato l'assemblea costituente prima del voto, e quindi vi è proprio un peccato di origine nello stesso farsi della transizione, ma le rivoluzioni non sono mai invano. Perché stiamo parlando di Egitto? Non solo perché, come dire, è una questione interna al paese, ma perché l'Egitto riveste un ruolo nella regione fondamentale. Lo abbiamo visto con l'operato di Morsi nelle settimane scorse, per quella crisi a Gaza che poteva avere esiti ben più drammatici. L'Egitto gioca un ruolo fondamentale e la comunità internazionale è molto attenta a quello che accade. Allora abbiamo raggiunto Larbi Sadiki, che è uno studioso di scienze politiche proprio dei paesi medio orientali, lavora all'università di Exeter in Inghilterra. A lui abbiamo chiesto un commento proprio su questo particolarissimo momento di transizione dell'Egitto e sul ruolo della comunità internazionale e in particolare dell'Europa. Dal momento che la popolazione della regione si è espressa ed ha intrapreso un percorso che passa attraverso la rivoluzione, dovremmo rispettarla. E l'unica cosa che possiamo fare in Occidente è assicurare che il processo di uscita dalla dittatura venga rispettato e che il processo di costruzione delle istituzioni legali venga garantito. L'Egitto è certamente un paese molto importante in questa regione, perché non dimentichiamo che l'Egitto è stato l'unico ad avere una relazione con Israele. Ho fiducia negli egiziani e credo che solo gli egiziani possano tacciare Morsi di incompetenza. Loro sanno quello che fanno e credo che se guardiamo a quello che è avvenuto negli ultimi giorni, hanno dimostrato in modo eccezionale la consapevolezza di chi sono, e questo è molto importante. È sano che gli egiziani scendano in piazza. Sanno che un presidente non può essere come era Mubarak e credo stia a loro determinare il proprio futuro, e l'Unione Europea deve lasciarglielo fare. Sebbene ci siano delle difficoltà, soprattutto in termini economici, l'Unione Europea ha il dovere di aiutare l'Egitto. Specialmente in termini di sviluppo, abbiamo moltissimo da imparare da Francia, Spagna e Germania. E anche per quanto riguarda il processo di institution building, le riforme giudiziarie, l'avanzamento tecnologico, l'educazione. Sono queste le materie in cui l'UE può e deve giocare un ruolo e deve avere un'agenda precisa da non lasciarsi sfuggire per mantenere i rapporti con la nuova società civile egiziana. Al 349-238-6666 tutto il pessimismo degli ascoltatori. Roberto da Roma: per il mondo musulmano pare che i secoli passino quasi invano. Al di là di elite colte, laiche e aperte alle altre culture, la gran parte pare essere prigioniera di una visione della società oppressiva e intollerante, in particolare verso le donne. C'è pure chi vorrebbe distruggere le piramidi, ma come si può essere tanti invasati? Chiude così il commento Roberto. Paola Caridi, apriamo il capitolo relativo alla lotta di poteri tra i giudici, il potere giudiziario appunto, e il presidente Morsi. In particolare abbiamo raggiunto un giudice, Youssef Auf, è un giudice del Cairo, un giudice egiziano che divide la sua carriera tra il tribunale e l'università, la Cairo University. E a lui abbiamo chiesto innanzitutto il futuro, dove condurrà questa lotta del presidente Morsi contro gli altri organi di potere in Egitto. Ascoltiamo. We have to explain at first the roots of this problem. Per rispondere alla tua domanda devo andare alle radici del problema. In primo luogo, in Egitto al momento non esiste un Parlamento e questa assenza di potere legislativo crea molti problemi. In secondo luogo, il periodo di transizione dopo la rivoluzione dello scorso anno è stato guidato dal Consiglio Superiore delle Forze Armate, che ha commesso parecchi errori. Errori politici nella semplice amministrazione del paese attraverso l'attuale fase di transizione. Questo ha spinto il potere giudiziario all'interno dell'arena politica. E per questo motivo adesso i fratelli musulmani continuano a dire che la magistratura è un organo non indipendente ma politicizzato. Ma questa cosa non è vera. I giudici in Egitto non sono coinvolti nella gestione politica del paese. La cattiva amministrazione della fase di transizione ci ha condotto alla lotta tra poteri che abbiamo tutti davanti agli occhi adesso. Da una parte il presidente Morsi e dall'altra i giudici. È iniziata il 14 luglio di quest'anno, dopo che il presidente Morsi ha riconvocato il Parlamento, che era stato sciolto dal Consiglio Superiore delle Forze Armate, dopo la dichiarazione di incostituzionalità emanata proprio dalla Corte Costituzionale, ed è proseguita poi con il decreto del presidente del 22 novembre, con cui ha esteso i propri poteri, e che secondo me è incostituzionale, perché minaccia profondamente l'indipendenza del potere giudiziario. Perciò sapere a cosa condurrà questa lotta in futuro è davvero difficile da capire. La situazione in Egitto è molto vaga e confusa e da entrambe le parti c'è molta ambiguità. Da una parte, infatti, ci sono i giudici e i magistrati in protesta o in pieno sit-in e dall'altra l'irremovibilità della propria decisione, dichiarata ieri da Morsi. E questa era la voce di Yusuf Auf, questo giudice egiziano che abbiamo raggiunto. Paola Caridi, si ha la sensazione, osservando l'operato sullo scacchiere egiziano di Morsi, che abbia avuto un'accelerazione negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Perché questa fretta? Perché sta stringendo i tempi? Perché pigia tanto sull'acceleratore? Non sembra risultare controproducente? Ma ci sono, secondo me, due tipi di accelerazione. Una prima accelerazione che ha sfruttato il ruolo internazionale dell'Egitto, e cioè sia nel caso del rapporto fra la presidenza Morsi e i militari e fra la presidenza Morsi e i giudici, Morsi ha premuto sull'acceleratore proprio quando è risultato chiaro il ruolo fondamentale dell'Egitto nello scacchiere mediorientale. È successo ad agosto con i militari, quando ha dimissionato le due figure più importanti nell'alta gerarchia militare. È successo anche adesso, perché ha sfruttato il suo ruolo di mediazione fra Israele e Hamas per far concludere la breve e sanguinosa guerra di Gaza, per poi gestire la questione interna, cioè arrivare al braccio di ferro, anzi chiudere il braccio di ferro fra presidenza e magistratura. Perché? Perché il problema della magistratura e dell'indipendenza della magistratura, come già diceva il giudice Auf, è un problema serio nella storia dell'Egitto. Durante il periodo di Mubarak, che è durato, ricordiamolo, 30 anni, l'indipendenza della magistratura è stata man mano, se non proprio eliminata, almeno limitata fortemente. E dunque, qual è il tentativo di Morsi? Quello di non avere di fronte a sé una magistratura non indipendente, ma semmai dipendente dal precedente regime. Certo, la magistratura non è un tutto omogeneo, neanche in Egitto, quindi sì. Se è vero che parte dei magistrati erano legati al vecchio regime Mubarak, è anche vero che nella stessa magistratura egiziana ci sono stati fior di giudici che si sono opposti a Mubarak, anzi sono stati, come dire, seme per l'opposizione che poi ha dato luogo alla rivoluzione. E poi non dimentichiamo che la magistratura ha represso fortemente la Fratellanza Musulmana fino al 2011, compreso il leader più forte della Fratellanza, che non è Morsi ma che è Hayrat al-Shater, che è stato messo in galera per anni, non per mesi, dalla magistratura egiziana, così come è successo lo stesso Morsi, che ha visitato le patrie gallerie egiziane per molto tempo. Ecco, quanto è forte anche la macchina, l'apparato di Mubarak, l'uscita di scena del vecchio presidente non è bastata a sfoltire quello che invece è un apparato, ricordava Paolo Caridi, anche in ambito giudiziario, ma soprattutto pensiamo all'aspetto militare. 349-238-6666, gentili ascoltatori, per commentare, porre le vostre riflessioni, le vostre domande. Dove sta andando l'Egitto? Siamo di fronte a una svolta autoritaria e quindi Morsi come un faraone, Morsi come il vecchio deposto Mubarak, un ascoltatore che non si firma, in pochissime parole esprime questo concetto e dice: il 1789, facendo riferimento a note rivoluzioni, in Islam non si esporta, insomma, adducendo il fatto, insomma, che quelle che sono le rivoluzioni occidentali che noi abbiamo conosciuto nella nostra storia in un paese musulmano, nell'Islam, secondo lui, appunto, non si possono attuare. Si parlava di quello che è l'apparato di sicurezza gigantesco che Mubarak nei suoi 30 anni di regime aveva messo in piedi, un apparato che in parte è ancora assolutamente attivo. Vorrei tornare sulle parole di questo giudice che vi ho già introdotto prima, Youssef Aouf. Lui scrive, fra l'altro, su Egypt Source, posteremo poi su Facebook questo sito molto interessante per chi si occupa di Egitto, e lui torna sul punto dei processi di chi si era macchiato di omicidi, di chi si era macchiato di uccisioni dei ragazzi che protestavano in piazza Tahrir. Ascoltiamo. The problem comes from the idea that the police forces in Egypt were attacking the people during the revolution. Con Mubarak la polizia usava attaccare e arrestare chi protestava durante la rivoluzione. Anzi, la polizia era famosa per comportamenti fuori dalla legge. Per questo la gente in Egitto è abituata a vedere nella polizia un antagonista. Dopo la caduta di Mubarak, dopo il 25 gennaio 2011, ci sono stati numerosi scontri violenti tra la gente che protestava per strada e la polizia. E molti manifestanti sono stati picchiati e qualcuno è morto. Quando in seguito si sono svolti i processi per l'accusa di omicidio a poliziotti coinvolti negli scontri, la polizia era l'unica parte in causa delle due a poter venire a contatto con le prove, inquinarle o farle sparire. Inoltre, per l'accusa stessa dei poliziotti, erano stati chiamati altri membri della polizia. Ovviamente non si può pretendere che la polizia accusi se stessa. Agli occhi della gente, ovviamente è sembrato chiaro che la corte e la magistratura non stessero facendo il proprio lavoro. Ma in quel caso non era un problema dei giudici, ma dell'accusa e della difesa, e di chi ha svolto le indagini che hanno poi portato i casi in tribunale. Being done in the right manner by the police officers, because actually they are the accused person. Insomma, dalle parole di questo giudice si capisce ancora una volta, come già Paolo Acaridi stava sottolineando, come la fase di transizione in Egitto sia stata condotta in maniera assolutamente peculiare. Tutti ricordiamo il processo a Mubarak, tutti ricordiamo che, insomma, i colpevoli di quelle che furono svariate decine e decine di uccisioni poi non sono state consegnate alla legge. Perché? Perché proprio quelli che dovevano compiere le indagini erano quelli che in quelle serate, in quelle nottate, in quei giorni premevano il grilletto. Ragioniamo adesso invece con Paolo Acaridi su quello che è un capitolo fondamentale e che ha causato levata di scudi da parte di tanti analisti, soprattutto stranieri, perché nella bozza di Costituzione che dovrebbe finire tra le mani di Mohamed Morsi proprio in queste ore e che sarà sottoposta a un referendum entro un paio di settimane, si parla ancora di Sharia. Adesso Paola ti chiedo come la pensi, però prima ascoltiamo insieme ancora il giudice Youssef Aouf. No one is disagree about it, okay? The problem comes from one thing, the interpretation of... Occorre specificare che nessuno ha nulla in contrario rispetto all'introduzione del codice della Sharia tra le fonti legislative. Il problema sta invece nell'interpretazione della Sharia, perché ci sono decine di scuole diverse, decine di dottrine giuridiche differenti e 14 secoli di letteratura da cui possiamo attingere per l'applicazione della Sharia oggi. Per cui non è la fonte in sé il problema, quanto la sua interpretazione, in versione più o meno radicale, nel diritto civile egiziano. Questo è il problema numero uno, seguito dalla contraddizione continua in Parlamento tra i fratelli che mirano ad un'applicazione il più possibile estesa del codice islamico come fonte legislativa e i liberali che vorrebbero, al contrario, ridurla al minimo. E in tutto ciò dobbiamo ricordare però che la Sharia era già citata nella precedente Costituzione. Paola Caridi, esiste questo rischio che, come dire, un analista occidentale potrebbe vedere come un rischio ai diritti fondamentali dell'uomo, l'introduzione della Sharia, che poi non è introduzione perché già c'era, insomma. Ma intanto dobbiamo capire che cos'è la Sharia e anche, secondo me, evitare gli stereotipi, come ho sentito anche in alcune delle risposte degli ascoltatori. L'Islam e la democrazia non sono compatibili, questo poi è il succo, noi siamo più bravi, abbiamo avuto la rivoluzione francese, eccetera. Io mi permetto di dire sommessamente che dovremmo esaminare non solo la complessità di un mondo che in parte anche è parte delle nostre radici culturali, ma credo che dobbiamo poi conoscerlo, e conoscendolo si evitano anche alcuni errori che sono stati compiuti, per esempio, dalla pubblicistica italiana in questi giorni. Cioè, la Sharia c'è sempre stata come fonte nel diritto nei paesi arabi, anche quando c'eravamo noi come colonizzatori, i francesi, gli inglesi, vi è sempre stata una compresenza nella legislazione dei diversi diritti, cosa anche contraddittoria, nel senso che se c'erano gli inglesi c'è stata la common law e la Sharia, c'erano i francesi, la legge francese e la Sharia. Allora, neanche questa volta c'è qualcosa di diverso rispetto a prima per quanto concerne questo famoso articolo 2, in cui si dice che i principi della Sharia sono la fonte principale del diritto, perché queste parole erano state scritte da Mubarak, neanche da Sadat, ma da Mubarak nel famoso articolo 2 della Costituzione di Sadat, rivista durante il periodo Mubarak. Questa è la prima cosa che dobbiamo dire, eppure con Mubarak facevamo affari, eravamo alleati, era il principe della stabilità. Sì, la nostra sponda, la sponda dell'Occidente, insomma, in un luogo cruciale. Quindi, insomma, la complessità è fondamentale per leggere quello che sta succedendo. Dopodiché è certo che ci sono dei rischi, certo che ci sono dei pericoli, perché dipende, come diceva il giudice Auf, quale tipo di interpretazione si dà alla Sharia. Se è una interpretazione estremamente letteralista, cioè quella dei salafiti, se è un'interpretazione più riformatrice, che è quella dei fratelli musulmani, perché i fratelli musulmani sono un movimento riformatore all'interno dei movimenti politici islamisti, e quanto peso avranno i laici. Allora, devo chiudere, Paola? Sì. No, prego, prego, se devi chiudere, il discorso è troppo lungo, lo rimandiamo. Insomma, alla in buona sostanza, come verrà applicata la Sharia? Questo è il punto fondamentale. 19:55, grazie Paola Credi per essere stata con noi. Nadia Zammitti, Laura Fagini in redazione, Fabio Cantadori in regia. Noi ci risentiamo sabato 19:15, puntata speciale Balabalouk Afghanistan. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.